24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione. Io sono offeso e indignato per il fatto di essere chiamato in causa in una vicenda alla quale sono del tutto estraneo. Tu che hai rispettato le leggi dello Stato, ti senti sfortunato, ti senti perseguitato, offeso, amareggiato. Loro attaccano un ordine che stava una frutta, perché non ce la fanno davvero più. Quando parliamo di frutta, se parliamo del Partito Democratico, parliamo di, chiaramente, di arance. Per molti non fa più troppa notizia che mi stanno arrestando un giorno, però dovremmo iniziare, no, a capire la gravità, quanti soldi nostri si ruba il Partito Democratico. Tu che hai provveduto, tu che non hai mai sgarrato, tu che la giustizia ci hai sempre creduto, allora tu andrai in prigione, in prigione, in prigione. Che siano state pagate tangenti per il programma di metanizzazione dell'isola di Ischia, vicenda alla quale sono totalmente estraneo. Non vedo che cosa c'entra chi conosco e chi non conosco. Della gente, e non ti fermi alle apparenze, ma analizzi, scavi e poi sputi le sentenze. Allora, una battuta, però ogni giorno c'è un esponente del PD che si alza e sa che dovrà correre più veloce di una gazzella, e la gazzella chiaramente è una gazzella dei carabinieri. Questo è Di Battista del Movimento 5 Stelle, non so se avete capito in questo video che si è fatto a casa, no? Ogni giorno un esponente del PD si alza e sa che dovrà correre più veloce della gazzella. La gazzella dei carabinieri. Vedete quella leggenda africana, no? Quel motto africano. E vabbè, e allora D'Alema, come scrive Iena sulla stampa, in vino veritas. Oh, D'Alema non è indagato. Chiariamolo, come Lupi non era indagato, non è indagato per la vicenda, no? Della presunta cricca. Si racconta di questa cooperativa che, tramite il sindaco di Ischia, che invece è finito agli arresti insieme ai capi di questa cooperativa, faceva affari a Ischia e ha comprato anche, tra i vari affari, 2000 bottiglie di vino di D'Alema, che a Repubblica dice: si sa che il mio vino è prestigioso e un onore è l'onore a riceverlo, non venderlo. In prigione, in prigione. Poi anche dei libri di D'Alema ha comprato, ma D'Alema si dice indignato per essere accostato a questa vicenda. Gente onesta, tutta preparata a festa, che si avvia verso il mare, vi dovete bloccare, fermare, catturare, sì, per mandarli in prigione. Che dire, cari ascoltatori, che dire, ogni giorno c'è uno scandalo, uno pseudo scandalo, perché poi ovviamente bisognerà capire le vicende come si evolveranno. Intanto qui alle 6.33 minuti, a 24 mattino, siamo pronti per una nuova puntata. Se volete scriverci al 349-238-6666, il nostro alpino Peter Bescapè è lì in regia, il nostro Lorenzo Nespoli è lì in redazione. Bennato suona, il Bennato straordinario, Intanto io voglio subito salutare i miei ospiti, Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. A Libero, buongiorno Massimo, come va? Buongiorno, buongiorno. Beh, insomma, intanto dobbiamo dire un particolare di questa inchiesta. Sai chi indaga? Beh, tu lo sai, ma insomma non lo sanno forse gli ascoltatori. Woodcock. Woodcock. Woodcock, sì, questo Però va bene in questo caso. In questo caso va bene, perché Libero spesso, insomma, è stato un po' critico di Woodcock e delle indagini. Sì, beh, ma anche stavolta vedremo come va a finire, come sempre. Noi ci siamo concentrati su un particolare di questa indagine, che è un particolare che non è giudiziario, come spesso succede in Italia. Da queste intercettazioni saltano fuori delle frasi che più che reati, o almeno non per il momento, denunciano un malcostume. Quelle ci sono, come c'erano con Lupi che non era indagato, come ci sono state in tante altre situazioni. Ho fatto una foto, intanto, Abbiamo una banca, per esempio. Sì, sì. E questa è l'intercettazione. Quello, alla fine il reato non c'era, però l'intercettazione c'era. E certo, qua l'intercettazione madre sarebbe quella di due che parlano e dicono: D'Alema ha messo le mani nella merda. E ci ha dato delle cose. Esatto, loro dicono fondamentalmente: bisogna che sosteniamo economicamente la fondazione di D'Alema, perché poi D'Alema, al momento opportuno, quando glielo chiediamo, è uno di quelli che si sporca ovviamente le mani, e quindi ci dà una mano. Bisognerà vedere, ovviamente. D'Alema si dice indignato. Intanto fatemi aprire il Parlamento, perché voglio salutare anche l'altro nostro ospite. Grandissimo ritorno, grande. Vado a prendere un caffè. Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Come va? Eccoci qua. Rienzi, siete pronti già a fare qualche tipo di... No. Di ricorso. Esula un po' dai nostri compiti, certo, finalmente. Certo. 2000 bottiglie di vino comprate da chissà chi. Bisogna vedere se è vino italiano, se è vino... È di D'Alema. È il vino di D'Alema. Ci sono dei conservanti, delle sostanze chimiche. No, dice D'Alema che non ci sono sul vino. No. È ottimo il vino di D'Alema. Facciamo fare un'analisi con Inas e vediamo, insomma, se è un affare buono oppure no. Certo che devo dire, Rienzi e De Manzoni, Rienzi, un'altra COP, oggi, vabbè, che lo scriva Libero, bravo. E vabbè, però Repubblica anche fa tutta una pagina a dire: oh, ma ormai non c'è scandalo che non salti fuori una COP, Rienzi. Sì, perché economicamente sono molto importanti, sono anche brave probabilmente nel lavorare. Purtroppo nel nostro sistema si sa che questo è l'andazzo, quindi si sono adeguati all'andazzo, non è che credo che una società, anche se è una società cooperativa, non è che c'ha un'ideologia per cui non si adegua. È una società che deve fare profitto. Stiamo in Italia e quindi ci adeguiamo tutti. Cioè, in questo paese le COP hanno una fiscalità di vantaggio. Cioè partono già in regime di concorrenza sleale nei confronti di altre aziende. Se poi scopriamo che usano anche i metodi scorretti di altre aziende, quantomeno qui si pone il problema di togliergli questa fiscalità di vantaggio. Sono come tutte le altre, corrompono come tutte le altre, fanno quello che fanno le altre, le peggiori delle altre. Esatto. Non tutte. Almeno non è che possiamo dargli il vantaggio di partenza e loro pagano meno fisco degli altri, perché così non esiste troppo. Però l'hanno eliminato questo, un po' mi pare che ci sia stata una riforma che ha diminuito molto questo vantaggio. Per il momento io voglio dire una cosa, l'ultima persona al mondo che può difendere Massimo D'Alema sono io. Non ispira simpatia, ecco, possiamo metterla così, De Manzoni, non ispira grandissima simpatia, ecco, abbiamo un eufemismo, però un piccolo sputtanamento c'è da questo solito uso delle stralci di verbale che finiscono sui giornali. Cioè, al momento non è indagato, conosce delle persone che hanno comprato 2000 vini, alcuni dicono di lui finanziamolo perché poi lui ci dà delle cose, però Massimo, che intanto è lì, sui giornali, no? Questo è un malcostume che non è che ce ne accorgiamo adesso che colpisce da lei. Abbiamo appena fatto dimettere un ministro per esattamente, anzi forse qualcosa di meno, ma insomma eravamo a questi livelli qui, cioè un ministro intercettato intanto che diceva a un manager: ma ti mando mio figlio, gli dai due dritte, e poi quel figlio è stato assunto tra l'altro un figlio bravo che aveva preso 110 lodi alla laurea in una facoltà dove normalmente nel giro di poco tempo sono statisticamente tutti occupati, che adesso lavora negli Stati Uniti, quindi non proprio l'ultimo che passa. Poi l'hanno assunto a fare uno stage per 1.300 euro al mese, sì. E quindi tutto è dimesso. Poi quindi dice, lo sputtanamento corre un po' per tutti. Lo scandalo Lupi, questa roba qui era, e si è dimesso. D'Alema non può dimettersi perché ha dimesso già qualcun altro da un po' di cariche, però se avesse una carica oggettivamente dovresti dimettere anche lui, non so. Rienzi, le piacciono tutte queste intercettazioni, vanno bene oppure... Non credo che non si può andare avanti così, però, perché uno stralcio, poi chi lo dà sto stralcio ai giornali, da dove viene? Va in procura degli altri, cioè, tra l'altro mi arriva un messaggio di un ascoltatore che dice pensa che io sono un dipendente di quella cooperativa, e vabbè, ma non è che essere dipendente di quella cooperativa voglia dire chissà cosa, poi ci sono c'è tutto da provare, però Renzi secondo me va regolamentata questa questione, come mi sembra che si voglia fare, perché non si può ogni volta mettere poi alla gogna una persona per una frase detta da un altro senza guardare tutti gli atti. Allora o si deve pubblicare tutto, cioè togliamo il segreto istruttorio, allora anche Libero si guarda tutte le carte e fa una sua valutazione sulla situazione. Sì, ma le intercettazioni, cioè c'è il rischio poi di fare veramente, di emettere delle sentenze quantomeno morali e politiche ben prima. Ma per carità, cioè non lo dico adesso, sembra che difenda D'Alema da quando c'è la vicenda di Berlusconi. Questo è un problema annoso in Italia, però cioè, non mi pare che se non sia stato posto in questi termini quando colpiva altre persone. È sempre stato posto in questi termini. Quando è successo a Berlusconi? Ci saranno state le polemiche, ti ricordi? E le oggettive. Ma abbiamo sollevate noi di Libero e Giornale, punto. Tutti gli altri erano blindatissimi, erano tutti d'accordo, che bisognava sapere. Fatelo dire dall'avvocato Rienzi. Io sono favorevolissimo a eliminare tutto, buonanotte. Che l'ho sempre detto, mi fa un po' specie che adesso ci indigniamo tutti perché è successo ad D'Alema, a migliaia di persone in Italia. Questo sì. Rienzi, io le faccio sentire il quasi omonimo. Sì. Renzi, ha visto che adesso ha messo in riga il partito sulla questione della legge. Come messo in riga il partito e poi mette in riga un po' tutti, Salvini, Landini, tutti, sentite. Vorrei dire a quelli di noi che continuano a lamentarsi di Salvini in TV, smettetela di lamentarvi di Salvini in TV, più va in TV più gli italiani lo conoscono. Noi dobbiamo smettere di essere preoccupati. Più vanno in TV e più lo conoscono. Poi Grillo. Oggi Grillo da spauracchio è diventato sciacallo, si butta su tutto ciò che accade nello scenario politico nazionale e internazionale, anche sciacallo, dichiarazioni di, e poi Salvini e Landini soprammobili da TV. Ma quando vedo in particolar modo i nostri principali avversari oggi, sia a destra che a sinistra, per non fare nomi ma solo cognomi, Salvini e Landini, essere i punti di riferimento in modo molto diverso, ma dico che sono due fenomeni televisivi oggi. La politica produce dei personaggi che sono semplicemente degli ospiti, dei soprammobili da talk televisivo. Eccolo qua. Insomma, Rienzi, qua c'è un Renzi che pare sia ormai il capo indiscusso di tutto, non so, anche del Kodakons forse. Non... Può darsi, magari è il presidente occulto. Non ancora accorti, però può essere dall'altro, cioè, un'imposizione di qualche genere. Ma il dire che si tratta di un soprammobile televisivo, è proprio lui che ha fatto della comunicazione mediatica, è uno strumento potentissimo, quindi mi pare che siamo un po' tutti stufi di questi talk show, ormai non si fa altro che aprire e vedere i soliti 4-5, compreso Renzi, perché è molto presente, e ognuno va a dire la stessa cosa che dice quell'altro, però fa finta che invece sia diverso. Francamente penso che gli italiani adesso ritorneranno in una fase di antipolitica come è stata quella di Grillo, non si sa a chi si rivolgeranno. Poi torneranno, perché... cioè ci sono già da un bel po' in una fase di antipolitica. Però Renzi aveva dato questa speranza, no? Praticamente si sono buttati tutti su di lui dicendo finalmente si risolvono i problemi, finalmente c'è qualcuno che fa le cose, eccetera, eccetera. Mm. Adesso queste cose non è che ne ha fatte tantissime e poi continuano sempre a fare questi talk show e quindi la gente comincia a stufare. Se non riparte l'economia ci sarà una nuova ondata di antipolitica, se non riparte l'investimento, sì, non riparte l'occupazione, ma non con numeri detti in televisione, ma con persone che veramente vanno a lavorare, ecco, questo è il problema. No, anche perché effettivamente c'è tutti questi dibattiti sulla legge elettorale. Io veramente, Massimo, sono fatti al contrario i giornali, almeno alcuni giornali, cioè le paginate sul dibattito sulla legge elettorale e poi, che ne so, l'economia che forse riparte, i dati, l'occupazione, ma proprio al contrario sono fatti. Al contrario, io dico, per l'interesse della gente comune, mi pare. Sì, di sì, in parte hai ragione e poi le conseguenze si vedono, perché poi si comprano sempre meno giornali. C'è da dire che comunque la legge elettorale non è che in uno Stato sia proprio un dettaglio secondario come viene fatta una legge elettorale, soprattutto in una situazione come questa in cui, come si accenna qua e là, ma senza che poi la cosa faccia particolarmente breccia, Renzi sta diventando un asso pigliatutto. Se si adesso si disegna la sua legge elettorale su misura, qui si sta preparando un piccolo reggimento sorridente, pieno di nei, di battute, che con quella faccia può dire quello che vuole. La battuta adesso promuove in TV. È surreale detta da Renzi, però passa via lì, sì. lui lo dice e io che in TV ci vado, però effettivamente dare i soprammobili in TV, effettivamente anche stamattina ho aperto il microonde ed è uscito Salvini, ho aperto il frigorifero e c'era Landini, e ho aperto la lavastoviglie e c'era Renzi, perché ormai esondano e escono da tutte le parti. Tu stai attento, ecco, Massimo, la differenza che Renzi ha un po' più potere sia di Landini che di Salvini, sì. E appunto il fatto che si faccia una legge elettorale su misura, ecco, non è tanto che si parli della legge elettorale, secondo me è come se ne parla, ne stiamo parlando solo in termini di il PD, il PD è pro, sì, contro, esatto, si spacca, di rapporti, non si spacca, di forze, sì, all'interno del PD. Invece qui è la sostanza della legge che dovrebbe preoccuparci. Ma questo è l'altro aspetto, cioè che dell'argomento, come quando del Jobs Act si è parlato del Jobs Act, chi lo vota, chi non lo vota, chi è contro, chi è pro, e poi nessuno si chiede ma cosa c'è nel Jobs Act? E nessuno lo sapeva. Ma dopo il traffico io vorrei capire anche, tornare a parlare a questa storia di Germanwings, dell'aereo, perché ogni giorno davvero ne scopriamo di nuove. Qua abbiamo Libero che con la Germania è andato giù tenero, abbiamo Renzi, vorrei capire anche dal Colacons un attimo se possono fare qualcosa, quelli Lufthansa stanno all'estero, chi lo sa. 24 mattino. L'Italicum sarà copiata da mezza Europa? Questo non lo so, ma di una cosa sono certo, che a me non fa i premi di maggioranza, non fanno i designati, da quando ci sono i designati a votare non ci sono più andato. Vogliono presentare l'Interland di Milano e il centro di Milano a livello internazionale per l'Expo. Cosa gli rappresentano? Cosa gli fanno vedere? La mondezza che c'è in mezzo alle strade, di qua e di là, dappertutto, dove passi, pieno di immondizia. Italiani, popolo incivile, sporco! Un saluto ad Alessandro Milan di Radio 24. C'è Radio 24 che al mattino ha delegato Milan, detto Alino, a tirare giù dal letto i debosciati, ancora nei loro sogni sprofondati. E lui lo fa con mille e più trovate, che tu ti chiedi ma dove le ha scovate. Ciao me Milan. È mitico, è tornato il nostro Pautasso. Buongiorno, come va? Bene, no, non mi può rispondere in segreteria telefonica. Non non è che mi può dare una risposta. Allora, ma Rienzi, ma qui se ne scopre una ogni giorno. Dai, chieda qualcosa, faccia qualcosa per i piloti italiani. Bisogna ricostituire anche questo rapporto di fiducia. Adesso io non sopporto l'idea che la gente salga in aereo pensando di trovare un pilota che con piacere si vada a schiantare, cosa che invece non è. Però, il problema è sempre quello dei controlli, perché sì. A parte adesso il pilota matto che si è buttato, si è suicidato, sì. Ma siamo nel dubbio che anche in Italia ci siano efficaci controlli, per esempio sulla manutenzione. Vorrei tornare sulla manutenzione, che non c'entra in questo caso, mi auguro, quindi non dovrebbe. È il nostro problema principale, cioè. Si dice addirittura che si usano pezzi riciclati di vecchi aerei, che vengono falsificati i certificati e così via. Quindi e questa è la manutenzione. Poi c'è il problema di salute. Allora, la salute, soprattutto per questi lavori, come quelli di chi porta l'autobus o chi porta il treno, no? Dovrebbe essere, purtroppo, mi dispiace per chi lo fa, ma devono essere sottoposti a visite efficienti, efficaci, ma dovrebbe essere così, e penso che venga fatto. Però, ma certo. No, perché vengono delegati, che ne so, all'INPS, che poi arriva lì col certificato la persona del medico di famiglia, gli fa due domande, un test e se ne va. Ma sono cose talmente delicate per cui bisognerebbe creare un sistema molto molto più efficiente. E questo è il problema, cioè no, bisogna... sì, è che qua, ragazzi, ogni giorno che passa, anche voi di Libero oggi scrivete dei Manzoni, si scoprono delle cose incredibili. Cioè, aveva tendenze suicide mostrate da anni, aveva fatto un corso di psicoterapia ma prima di diventare pilota. Ma che è, voglio dire, di qui la falla nel sistema di selezione e di controllo del materiale umano, mi pare che sia evidentissima, ogni cosa che salta fuori lo dimostra. Oggi dimostriamo anche un'altra cosa, che ci hanno anche raccontato un sacco di palle quelli della Lufthansa nell'immediatezza del fatto. Sì. Una delle tante è che i passeggeri non si sono accorti di nulla fino allo schianto. Adesso dal sbobinamento di quanto è avvenuto in cabina con la scatola nera, scopriamo che sono stati 8 minuti di puro terrore, come era logico aspettarsi. Se ne sono accorti dal primo istante, quando vedi in un aereo così, che non è un Boeing, cioè un gigante dell'aereo, un aereo da qualche centinaia di posti, la cabina di pilotaggio è lì, quando vedi che un comandante non sta prendendo ammazzate la cabina di pilotaggio, gridando come un matto, cercando di entrare, nel frattempo l'aereo scende di mille metri al minuto, è chiaro che ti rendi conto che sta succedendo qualcosa, e questo risulta dalle registrazioni. Vabbè, ho capito, ma voi perché fate? Perché qualcuno ha accusato di essere antitedeschi, di fare un po' di battaglia, cioè perché fate questa battaglia in nome di che cosa? È una battaglia in nome di che cosa? Intanto è una battaglia in nome della sicurezza, nel senso che devono cambiare, evidentemente c'è un meccanismo che è sbagliato, e sarebbe meglio che cambiassero le regole. Questo mi pare evidentissimo. Poi c'è un piccolo compiacimento nel fatto che i tedeschi, che continuano a fare i primi della classe in tutto e per tutto, quando siamo naufragati, questo è innegabile, perché devo dire che non è vero, c'è un po' questa componente, devo dire, i tedeschi sempre che si sentono sempre superiori, e invece qui hanno fatto hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare prima e dopo. Questo forse va detto, perché non capisco perché ma vi emergono dei particolari ogni giorno davvero, davvero sempre più inquietanti. Però io vorrei chiudere su una cosa. Ieri ho letto sul sito di Libero che Rienzi sta per vincere un premio, forse. Ma lei lo sa, Rienzi? Io sto per vincere un premio? ieri ho visto questa notizia. No, Rienzi, Rienzi, lei, non faccia il finto tonto. Ma no, è un premio strano, è un premio, no, credo, non bellissimo. Gufo 2015. Quello mi piace. I gufi sono amorevolissimi, sono animali molto piacevoli. Molto è tra buoni. I candidati di un premio Gufo 2015, perché non ho capito la motivazione. Qual è, Massimo? Perché? Ma è un premio premio che sta diventando prestigiosissimo, perché ormai concorrono più o meno 55 milioni di italiani a sentire Renzi. Non è un gran premio. Vincere un premio del genere vuol dire emergere un numero di candidati spaventoso. Che dobbiamo fare? In bocca al gufo? Speriamo, crevi il gufo. No, che vuol dire fare uno sterminio di italiani? No, crepi il gufo, no, dai, per il momento vi ringrazio Carlo Renzi e Massimo Nemanzoni, vice direttore di Libero. Tra poco, dopo il giornale radio, la rassegna stampa. In Africa, tutte le mattine, quando sorge il sole, una gazzella muore. Si sveglia già morta, perché si vede che non stava molto bene il giorno prima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Cari ascoltatori, siamo qui alle 7:18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali e vi ricordo che oggi avremo ospite il nuovo commissario per la spending review. Dopo Cottarelli, Renzi ha nominato Yoram Gutgeld, che è un deputato di origine israeliana ma è italiano da anni, deputato e consigliere economico dello stesso Renzi. Sarà con noi alle 8:20 per capire come e dove si può risparmiare sulla spesa pubblica italiana. E poi avremo ospite quel sindaco di Mulazzo che ha deciso se entro il 30 aprile, i suoi concittadini non pagheranno l'IMU, e lui metterà i nomi e i cognomi degli evasori fiscali sul sito del comune. Insomma, una bella gogna web per chi non paga le tasse. Parleremo con lui dalle 8:40. Ora andiamo a leggere i giornali. Sono le 7:19 minuti in questo martedì 31 marzo. I titoli, intanto, il Sole 24 Ore apre sulla borsa. In borsa rally da fusioni, Milano spinge l'Europa, questo è il titolo principale. Poi ovviamente l'indagine di Ischia con l'arresto del sindaco, le tangenti che agitano il PD, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per il Messaggero, tangenti, un arresto agita il PD. Mentre il Giornale, arrestato il vino di D'Alema. Il Fatto Quotidiano, Ischia, l'isola delle tangenti, D'Alema beccato, Renzi intercettato. Attenzione, perché il Fatto Quotidiano dice che anche una telefonata di Renzi è finita nelle intercettazioni. Libero, D'Alema mette le mani nella M puntata, è una delle intercettazioni di questa inchiesta. Poi le riforme per Repubblica, rivolta anti-Renzi, il premier al PD, basta ricatti. La Stampa invece, torna la fiducia nella ripresa e legge elettorale dal PD, via libera a Renzi, questo è il titolo di apertura. Avvenire invece, contro il terrore, un patto di civiltà, mentre direzione obbligata è il titolo del Manifesto, con un doppio senso, la direzione del PD e il fatto che Renzi non voglia fare più sconti sull'Italicum. E come vedete le aperture sono di politica, di economia. Voglio però partire, come al solito, segnalandovi altre notizie, come l'intervista a Guido Veneziani. Chi è, direte voi? Beh, è quello che vuole rilanciare l'unità. Viene intervistato dal Fatto Quotidiano, un'intervista di Alessandro Ferrucci. Non male, eh? Sentite Guido Veneziani, editore della Nuova Unità che dovrebbe rinascere il 25 aprile. Addio Gramsci, voto Movimento 5 Stelle, ma viva Renzi. Intanto Renzi che le dice? Non ho mai parlato con lui, anzi una sola volta, 4 minuti all'ultima Leopolda. Per oggi ha rilasciato una dichiarazione bellissima. Ha detto che non vuole con l'unità un nuovo strumento di propaganda. Esatto. E poi io non ho mai pubblicato prodotti caratterizzati. Noi abbiamo un progetto editoriale. Ci sarà la politica, l'economia, tutte le parti storiche, più altre innovative. Ma non voglio svelare alla concorrenza nulla. A un certo punto Alessandro Ferrucci fa una domanda un po' provocatoria, ma molti studi di settore dicono che a incuriosire i lettori sono ancora tette e culi. E il silenzio, è vero, risponde l'editore dell'Unità. Quindi donne nude sull'Unità? Senta, vendono anche i personaggi nati e idealizzati dalle televisioni, i loro amori, i loro tradimenti. Poi c'è modo e modo di pubblicare certe cose. Ma lei è vero che ha votato Grillo alle politiche? Sì, e con me il 25% degli italiani. Pentito? No, non mi pento quasi mai, però non sono uno impegnato nelle vicende politiche. In gioventù, non immagino, non ricordo cosa votavo. Oggi voterei invece Renzi. Pensa ancora che l'Unità è il giornale di Gramsci? Se il giornale ha chiuso è perché non incontrava più il gusto della gente, non interessava cosa si scriveva. Vabbè, allora, ma in che anno è nata l'Unità? Silenzio prolungato di veneziani, sospiro. Ah, non me lo ricordo. Vabbè, l'Unità forse rinasce il 25 aprile, la data del 25 aprile, lo stesso Veneziani dice: mi sento un po' travestito da Capitan Power, non so se riusciremo a rispettare questa data del 25 aprile. Ah, poi noi abbiamo lanciato qui la nostra direttrice, noi vorremmo Chiara Geloni, la nostra Chiara Geloni, direttore dell'Unità. Effettivamente Veneziani nell'intervista dice: questa cosa del direttore mi intriga e tengo il mistero, penso a qualcuno o qualcuna. Ah, la nostra Chiara Geloni, vediamo, noi tifiamo per lei, visto che spesso la ospitiamo alle 6:30. Vi racconto invece questa notizia che certamente fa molto molto meditare sul rapporto tra Stato e cittadini, Stato e imprese. Il giornale Lodovica Bulian da Udine racconta, pagina 15, quella storia del principale gruppo di abbigliamento del Friuli, Bernardi, messo in ginocchio da una cartella da esattoriale shock da 200 milioni di euro. Solo che gruppo Bernardi ha fatto ricorso, i giudici della commissione tributaria regionale di Napoli hanno ribaltato il verdetto di primo grado e stabilito l'annullamento dell'atto che contestava mancati versamenti IVA e IRAP. Cos'è successo però, piccolo particolare, che per quella cartella esattoriale da 200 milioni la ditta nel frattempo è stata messa in ginocchio e ha fatto crack. 3 anni e un fallimento dopo, quella richiesta era illegittima. E mo che si fa? Pone la questione il giornale, visto che l'azienda... Ora ovviamente c'è il rischio anche di centinaia di posti di lavoro, un'impresa che è stata mandata a catafascio, e questa è la storia raccontata dal giornale a pagina 15. Cartella fantasma da 200 milioni, Equitalia sbaglia, la ditta fa crack. 3 anni e un fallimento dopo si scopre quella richiesta di tasse era illegittima. E vabbè, vi segnalo che Dell'Utri, che è in carcere, sta scontando la sentenza, torna nuovamente sulle prime pagine dei giornali. Simone Bianchin su Repubblica, ma anche Paolo Colonnello in prima pagina della Stampa, 20.000 libri antichi sequestrati a Dell'Utri. Sono libri che il comandante delle indagini, il nucleo di tutela del patrimonio culturale di Monza, i carabinieri, hanno sequestrato a Dell'Utri perché hanno detto sono stati rubati negli anni da biblioteche, volumi stimati milioni di euro, trafugati a enti pubblici, trafugati a enti religiosi. Scrive Simone Bianchin su Repubblica: nella sua collezione di 20.000 libri storici sequestrati 2 anni fa, Marcello Dell'Utri aveva alcune decine di libri asportati illecitamente da biblioteche ecclesiastiche pubbliche di diverse città del nord Italia. Aveva incunaboli, libri del XV secolo che qualcuno aveva portato via indebitamente, senza che l'operazione venisse registrata dalle biblioteche e senza autorizzazione alla sovrintendenza per i beni librai. Libri asportati che venivano tenuti addirittura in qualche caso imballati e custoditi dentro a cavò nel deposito di Open Care, una società di stoccaggio di beni preziosi in via Piranesi a Milano. Non si sa perché li tenesse ancora così imballati, spiega un militare dei carabinieri impegnato nell'operazione. I PM accusano c'era proprio una rete al suo servizio di qualcuno che gli procurava questi libri antichi. Tutto sequestrato a Dell'Utri. E poi, che dire, cari ascoltatori? Beh, questo, permettete, ma è l'articolo davvero che mi fa pensare di questa giornata. L'articolo che mi fa tenere le mani strette sul volante, o meglio, a me al microfono. Voi tenetele strette sul volante se siete alla guida e, come dico sempre, appoggiate tutto ciò che avete di tagliente o di bollente nelle vostre colazioni. Alessandro Gonzato racconta, pagina 16 di Libero: è stato fatto un arresto ieri. È stato arrestato il figlio del bandito ucciso dal benzinaio Graziano Stacchio. Vi ricordate il benzinaio? Quello che ha sventato una rapina e ha ucciso Albano Cassol? Ieri il figlio di Albano Cassol è stato arrestato. L'accusa: associazione a delinquere finalizzata al furto, preso anche lui con la banda di giostrai che colpivano nelle sale slot. Scrive Libero: aveva ereditato dal padre l'attività criminale. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Alessandro Mila, il Max Allegri dell'informazione. Allegri. Dai, con lo schema Allegri, dai. Allora, cari ascoltatori, eccoci qua. Le notizie politiche sono due. La prima è quella del dibattito all'interno del PD, soprattutto per la questione dell'Italicum, e poi c'è l'inchiesta giudiziaria del giorno. Dacci oggi l'inchiesta giudiziaria del giorno sui giornali. Eccolo qua, Ischia, le mazzette del sindaco PD, è il titolo di pagina 2 del giornale. Ci sarebbe stato un giro di tangenti dietro l'assegnazione dei lavori di metanizzazione di alcuni comuni di Ischia. Tangenti che la cooperativa che ha ottenuto l'appalto, la CPL Concordia, avrebbe pagato finanziando l'attività imprenditoriale del sindaco del PD di Ischia, Giuseppe Ferrandino. L'inchiesta è di Napoli, è condotta dal PM Woodcock, affidata ai carabinieri del nucleo tutela ambiente del colonnello Sergio De Caprio, cioè il capitano ultimo, diventato celebre così. In cella sono finiti, tra gli altri, il sindaco Ferrandino, suo fratello Massimo, il presidente della CPL Roberto Casari e Francesco Simone, responsabile delle relazioni istituzionali della cooperativa. Secondo le indagini, la CPL avrebbe ottenuto di impiantare e gestire la rete di distribuzione del metano in vari comuni di Ischia grazie alla sponsorizzazione del sindaco, stipulando in cambio una convenzione, secondo la procura fittizia, con l'albergo Le Querce, gestito dalla famiglia Ferrandino, che prevedeva il versamento di 165.000 euro nel 2013 e identica cifra nel 2014 per l'affitto permanente di 7 camere. Però, mediaticamente, questo è il fatto contestato dalla procura. Di che cosa si parla? Si parla solamente della vicenda D'Alema, che, ripeto, non è indagato come era nella vicenda della cricca presunta fiorentina, il caso dell'ex ministro Lupi, non indagato. D'Alema non è indagato, ma nelle intercettazioni che dicono alcune delle persone arrestate. Beh, per esempio, due di questi, Simone, che si occupa della cooperativa, insieme al responsabile commerciale della cooperativa Verrini, dicono al telefono tra di loro: bisogna investire nella fondazione di D'Alema, sta per diventare commissario europeo, lui mette le mani nella merda come ha già fatto con noi e ci ha dato delle cose. Ora, questa intercettazione poi si legge anche nell'intercettazione di 2000 bottiglie di vino prodotte dall'azienda della moglie di D'Alema, sapete che D'Alema fa un buon vino, che sono state acquistate dalla CPL, e anche dei libri scritti da D'Alema. D'Alema come reagisce? Sono indignato, non ho mai ricevuto favori, scandaloso finire negli atti. L'intervista è di Ottavio Lucarelli a pagina 8 di Repubblica. Non sono indagato, di cosa devo rispondere della mia vita? La giustizia ha il compito di individuare reati, cosa c'entra chi conosco e chi non conosco? Certamente ho rapporti con CPL Concordia, per cui tenni anche una conferenza in occasione della sua assemblea annuale, ma è un rapporto del tutto trasparente. Dalla CPL non ho avuto alcun regalo ed è ridicolo definire l'acquisto in 3 anni di 2000 bottiglie di vino prodotto dalla mia famiglia come un mega ordine. Peraltro fatturato, pagato con bonifici a 4 mesi. Il vino non c'entra con l'inchiesta ed è noto a tutti che la mia famiglia produce un ottimo vino. Abbiamo più domanda che offerta, il favore è riceverlo, non è venderlo. Riguardo al sindaco di Ischia, l'ho conosciuto quando era candidato alle elezioni europee, l'ho incontrato una sola volta nella mia vita. Tra l'altro il Fatto Quotidiano racconta con Marco Lillo che nell'inchiesta è finito anche intercettato il presidente del Consiglio Matteo Renzi, a quanto risulta al Fatto, intercettata dai carabinieri anche una conversazione di Renzi con un importante generale della Guardia di Finanza, Michele Adinolfi. Tra l'altro racconta il Fatto, in quel fascicolo la notizia giornalistica è questa: il telefonino usato da Renzi è pagato dalla fondazione Big Bang fondata da Marco Carrai e che ora si chiama Fondazione Open. D'Alema reagisce così. Sul Messaggero, per la verità, c'è uno sfogo, Mario Aiello lo raccoglie a pagina 5, e dice D'Alema: il PM che indaga è una garanzia per tutti. Il PM è Woodcock, una garanzia non per me che non sono indagato e non c'entro, ma per tutti gli altri. Non si ricorda un solo cittadino che sia stato condannato per i suoi procedimenti. Questo il Messaggero, e in effetti molti giornali pongono l'accento su questo aspetto. Il Giornale con Stefano Zurlo, ma leggete anche il Foglio oggi in prima pagina. Renzi non può ignorare il metodo Woodcock applicato ad D'Alema. Si fosse trattato del solo sindaco di Ischia, forse le prime pagine dei giornali non se ne sarebbero accorte. Dunque, ecco il nome di D'Alema, non indagato, ma buttato lì un po' a caso, a brillare. Una cooperativa rossa su cui i magistrati di Napoli stanno indagando ha finanziato la sua fondazione Italiani Europei, ha comprato qualche centinaia di copie del suo libro e in 3 anni ha acquistato 2000 bottiglie del suo vino. Nessun reato. Ma titolano il sito di Tempo, Repubblica Napoli, Agi, Rai News: scandalo coprosse, spunta D'Alema. E alle 13 di ieri dall'account Twitter del quotidiano La Stampa parte questo messaggino: scandalo coprosse, spunta il nome di D'Alema e del clan dei Casalesi. Beh, un onorevole accostamento. Il responsabile delle indagini è il PM Woodcock, scrive il Foglio. Il PM vagante, vecchia gloria di rotocalchi, il PM generoso che da anni permette agli appassionati di godersi magnifiche intercettazioni su VIP e semi-VIP dello spettacolo della politica, tronisti, playboy da telecamera, ragazze ambiziose, calciatori, ministri, vallette, fotografi, giornalisti, senza paura, senza misura. Lavora certamente per la giustizia, ma anche per giornali e TV. E infatti Woodcock ha una spiccata passione per i grandi nomi, fece finire in galera Vittorio Emanuele di Savoia, poi prosciolto da ogni accusa. E per i grandi numeri, una delle sue inchieste più famose, 7000 pagine dal titolo Il mercato delle nomine, comprendeva 76 indagati, 1200 intercettazioni. C'erano l'allora presidente del Perugia Luciano Gaucci, la giornalista Rai Anna La Rosa, Tony Renis, Flavio Briatore, l'ambasciatore Vattani, Massimo D'Antona, Nicola Latorre, Franco Marini, Maurizio Gasparri, Antonio Marzano. Finì e finì che il GIP si rifiutò di firmare perfino gli ordini di cattura. Finì che i membri del governo furono prosciolti dal Tribunale dei Ministri e le accuse caddero anche per tutti gli altri. Conclude il foglio, spuntano D'Alema e il clan dei Casalesi. Il metodo Woodcock funziona così. Oggi tocca a D'Alema, domani potrebbe toccare a qualcun altro, anche più in alto, anche qualcuno che conosce bene Palazzo Chigi. Questo è il foglio, certo staremo a vedere. C'è anche un'interessante intervista di Pino Di Blasio, Il Giorno, intervista consorte, l'ex capo di Unipol, ex dice anche lui amico di D'Alema, nel senso che dice non vedo D'Alema da tanto tempo, negli anni ho capito meglio la natura dei rapporti che intercorrevano con lui e il partito. Io non ho mai cercato D'Alema, sono stati lui e la Torre che hanno cercato me nel periodo dell'operazione BNL. E perché la cercavano quando era al vertice di Unipol, a parte per gridare abbiamo una banca? Negli anni 2002-2005 ho preparato un progetto di ristrutturazione dei debiti dei DS e tra l'altro consorte butta lì questo sassolino. Rivela un segreto. Prima di morire Paolo Marcheselli, uno dei dirigenti che si occupò della ristrutturazione, lasciò alla moglie 3 scatoloni pieni di documenti con l'ordine di consegnarli solo a me. Dentro ci sono tutti gli atti notarili e le carte delle operazioni finanziarie e immobiliarie dei DS e soprattutto carte su come si erano formati quei debiti milionari. E questo consorte, Giovanni Consorte, Al Giorno butta lì nel commentare l'inchiesta che coinvolge anche se non indagato D'Alema questa vicenda. Vabbè, trovate tanti dettagli anche sull'ennesimo presunto scandalo che coinvolgerebbe una cooperativa, come racconta Michele Smargiassi su Repubblica. E poi l'altra notizia politica del giorno certamente è la legge elettorale, qualcosa vedremo tra poco. Intanto però voglio salutare Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno Alessandro, tutto bene? Tutto a posto. Sei a posto, bene. Stai anche sereno. Perché ieri stai sereno, tu stai sereno. Lo dici a me, no? Ieri c'è stato tutto lavoro, come sai, come leggi sul Sole 24 Ore di oggi, e abbiamo appreso dalla voce del ministro che entro agosto saranno completati i decreti del Jobs Act. Oh. Che si può anche dire riforma del lavoro. Abbiamo appreso anche qualcos'altro sui dati dell'occupazione che sì, migliorano, però sono aumentate pure le cessazioni in questi primi mesi del 2015. Su questo diciamo il giudizio è sospeso. Non fare il gufo. No, non sto facendo il gufo, sto sereno, mi hai detto di stare sereno, sto sereno, però serenamente dico che c'è questo dato, è oggi sul Sole 24 Ore, non l'ho mica letto chissà dove. Volevo anche dirti, ci sarà la busta arancione, tu sai cos'è la busta arancione? No, perché non è mai arrivata. È quella che ti deve dire quando andrai in pensione. Mai. Io ho paura di aprirla, c'è uno zero. No, non devi. Anche su questo stai sereno. Ecco. Stai sereno, però guarda che non sarà una busta. Arriverà a maggio, è stato detto, e non sarà una busta, sarà tutto online, perché sì, la busta forse non si trovava, o forse chissà, l'arancione magari nel frattempo è diventato un colore poco, come dire, poco, un po' malaugurante, ecco, diciamola così. Allora, però oggi scriviamo, ci sarà la busta arancione. Ti voglio dire che oggi è una giornata importante, sì. Importante, perché potrebbe esserci uno spiraglio nell'accordo per i bancari, questo contratto così tormentato, potrebbe esserci oggi uno spiraglio, e poi soprattutto entro oggi ci servirebbero 2,2 miliardi, ce li hai? Sì, 2,2 eurini, aumentando la mia quota, il capitale sociale, potrei arrivare a 2,2 eurini, non... No, perché che succede? Entro oggi bisognerebbe definire il destino del personale in esubero delle abolende, si può dire abolende secondo abolende, te? Abolende, bella, non è abolende. Delle abolende province, ecco, però bisognerebbe anche capire dove poi questo personale viene posizionato. Lo chiederò a Joram Gutgeld alle 8.15. Chiedi al dottor professor Gutgeld se appunto hanno un'idea, oppure se ha 2,2 miliardi lui da darsi. Potrebbe essere una soluzione di quelle proprio... pronto, magari lui li ha investiti sulle blue chip, cioè le azioni più importanti dei mercati europei. Oggi apprendo dal Sole 24 Ore, appunto nelle pagine di finanza, che c'è stato un aumento nei dividendi pagati, quindi può darsi che il professor Gutgeld abbia di questo da che attingere, ecco, da questa parte qua. Vabbè, poi ci sono molte altre cose che ti vorrei dire, ad esempio lo spesometro, speriamo che ci sia un rinvio, se no il 10 aprile incombe su nuove categorie, ma trovi tutto su le pagine di norme e tributi. È martedì, quindi è martedì oggi? Sì. Ah, ok, perché ieri era lunedì, quindi questo Non sei andato via il cellulare, ieri era lunedì, sì. Certo. Ieri era lunedì, okay. Ecco, e allora oggi è martedì e quindi c'è la pagina di condominio. Certo. E poi ti voglio dire che il mago, anche se paga le tasse, resta comunque uno che abusa dell'altrui credulità. L'ho letto su norme e tributi oggi sul Sole 24 Ore. Alessandro Milan, funicolare senza corrente. Eccolo lì. Allora, intanto il PD, e questa è una gran novità, litiga sulla legge elettorale. Ieri c'è stata la direzione del partito con Renzi, che ha detto il 26 aprile, credo 27, a fine aprile comunque, la legge va senza modifiche in discussione, perché l'obiettivo, come abbiamo detto più volte, è approvarla entro maggio, entro le regionali. Racconta Goffredo De Marchis nel retroscena, pagina 2 di Repubblica, l'opposizione evoca la scissione, la ditta non c'è più. Ecco, qui inizia proprio così De Marchis: la ditta, cioè il partito, non esiste più, non a caso ieri non l'ha nominata nessuno, osserva Pippo Civati, che aggiunge: insieme a Speranza rischiamo di perdere un pezzo del PD. Ancora Civati: io non so se chiamarla scissione, so che adesso tutti quelli che si oppongono al segretario hanno capito che i margini della trattativa sono nulli, chiamiamola rottura, chiamiamola spaccatura, comunque il PD è più diviso di ieri. Insomma, è andata in scena la puntata numero 8480 di questa telenovela, ma certamente la partita politica è molto importante. Renzi blinda l'Italicum con la direzione del PD, ma la sinistra non vota. Questo è il titolo di pagina 6 del Corriere della Sera, per raccontare appunto di un Renzi che tira dritto sulla legge elettorale. Anche Libero: Renzi blinda il suo Italicum, nel PD ormai decide solo lui. E invece il centrodestra, beh, ieri la notizia del giorno certamente era che cosa? Il fatto che Berlusconi potrebbe candidarsi a sindaco di Milano. In realtà il Corriere della Sera racconta il gelo leghista su Berlusconi e questa ipotesi, con Marco Cremonesi. Il segretario Salvini dice: certo, intanto chiunque, anche un milanese estratto a sorte, potrebbe fare meglio di Pisapia. Questa è la dura zampata di Salvini all'attuale sindaco di Milano. Però poi non commento è il gelido... commento, o meglio no comment, sull'ipotesi di Berlusconi candidato a sindaco, anche se per la verità il centrodestra deve più leccarsi le ferite per una situazione davvero di divisione all'interno del partito. Secondo Repubblica si parla di un vero e proprio processo, per esempio, a Paolo Romani, che è il capogruppo al Senato, processo all'interno del partito. Comunque, questa è Politica Spiccia. Vi voglio segnalare alcuni altri articoli molto interessanti, due sulla Stampa. Il primo: rimborsopoli in Valle d'Aosta, tutti assolti. Cari ascoltatori, è una decisione inaspettata. Erano accusati 24 consiglieri regionali delle legislature dal 2009 al 2012 di peculato e di uso di soldi nostri per spese loro, come per esempio i casi più eclatanti: biglietti aerei pagati alla moglie, contributi pensionistici e soldi ai giornali di partito. Il giudice li ha assolti in molti casi con la seguente motivazione: i consiglieri regionali criminali non sapevano di commettere un illecito, non sapevano. Per esempio, il giudice scrive che il consigliere del PDL Massimo Lattanzi, assolto per il pagamento del biglietto aereo del volo per Roma del 20 marzo 2010 in favore della moglie, assolto perché il fatto non sussiste. Episodio vero, ma manca la consapevolezza di compiere l'illecito. Ma perché uno dovrebbe pensare che possa essere un illecito pagare il biglietto alla moglie con i contributi della regione? E quindi assolto dal giudice. Ma assolti anche con stessa motivazione i consiglieri del PD Carmela Fontana, Raimondo Donzel, Gianni Rigo, che con il denaro pubblico si sono rimborsati i propri contributi previdenziali, ma non sapevano di commettere un illecito. Assolti, tutti assolti per la rimborsopoli in Valle d'Aosta. Evviva! L'altro articolo sulla stampa, in realtà è su tutti i giornali, riguarda la vicenda Lubitz, questo copilota della Germanwings, di cui si scopre ogni giorno un particolare sempre più inquietante. E il particolare che emerge era questo, che il copilota era in cura per tendenze suicide e prima di diventare pilota aveva frequentato corsi di psicoterapia, probabilmente manifestando le stesse tendenze. Lubitz fu curato per tendenze suicide, ora il dolore della zia, e certo bisognerebbe chiedersi anche il ruolo dei familiari, nessuno che ha acceso un campanellino d'allarme, nessuno che ha avvisato la Lufthansa, ma voglio dire, sembra davvero incredibile, la zia che dice lo ha fatto apposta, e adesso lo sappiamo, il copilota in cura per tendenze suicide, eppure il sistema si è inceppato per cui nessuno ha fatto scattare nessun tipo di allarme, un qualcosa davvero di inquietante. Vi segnalo anche sulla stampa l'intervento, che è un editoriale di prima pagina, di Mario Tozzi, geologo, che racconta in prima pagina il paradosso di abolire i forestali. Tra le ipotesi c'è quella di 5 corpi di polizia troppi e quindi far accorpare il corpo dei forestali alla polizia di Stato. E Mario Tozzi si esprime contro questa ipotesi perché dice che è un tentativo che sfrutta il malcontento generalizzato contro la pubblica amministrazione e i paradossi che giocano sull'ambiguità del termine forestale. Chi non ricorda gli scandali dell'assunzione di migliaia di operai forestali in Calabria e in Sicilia, o quelli che venivano riconosciuti responsabili degli incendi che essi stessi appiccavano? Ma non si trattava del corpo forestale dello Stato, ma tant'è, il termine ha indotto reazioni di contrarietà che vengono sfruttate per smantellare il corpo. E può darsi che ce ne sia bisogno, ma proviamo per un attimo a immaginare cosa accadrebbe se la forestale transitasse alla polizia. Come sarebbe possibile gestire le 150 riserve naturali statali? L'isola di Montecristo si è salvata dalla speculazione solo grazie al presidio di 2 coraggiosi forestali che vivono isolati dal mondo tutto l'anno. Che fine farebbero le 800 stazioni forestali esistenti? Ecco, tutte queste domande Mario Tozzi le dice per dire non abolite il corpo forestale. Ma siamo al momento della carta costi e non ci voglio credere. Poveri conigli, poveri conigli. L'articolo più inutile sui giornali, la Brambilla, l'ex ministro è furiosa. Dice basta mangiare coniglio, mettiamo in carcere, in carcere, in carcere chi mangia il coniglio. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che te pozzi via fuoco! Milan, il cagnas randaggio dell'informazione! Se fossi tua moglie, quante botte ti darei! Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora sono le 8:19 minuti in punto. Abbiamo un nuovo commissario per la spending review dopo Carlo Cottarelli. E quindi colui che si dovrà occupare della revisione della spesa pubblica dovrà decidere come e dove tagliare, razionalizzare. Si tratta di un parlamentare del Partito Democratico, è un consigliere economico del premier Matteo Renzi, è una persona che è nata e cresciuta a Tel Aviv in Israele, ma da tanti anni è in Italia ed è qui oggi con noi a parlare, cercare di spiegarci come si può razionalizzare la spesa pubblica in Italia. Si tratta dell'onorevole Yoram Gutgeld, che saluto, buongiorno e bentrovato Gutgeld, grazie per essere buongiorno. Qui. Allora, intanto partiamo da, lo capirà anche lei, un naturale scetticismo, cioè la gente si chiede perché è necessario un nuovo commissario della Spending Review. Beh, l'ultimo a novembre è tornato a Washington e quindi era necessario un ricambio. Lei ci conferma tra l'altro che verranno pubblicati presto i famosi dossier di Cottarelli. Lo stesso Cottarelli ci ha detto che il governo lo farà a breve e lo abbiamo intervistato un paio di mesi fa. Confermo che nei prossimi giorni saranno pubblicati. Saranno pubblicati. L'obiettivo ovviamente della Spending Review è disinnescare i 16 miliardi di clausole di salvaguardia, no? Che altrimenti si tradurrebbero in nuove tasse dal 2016. Mi può indicare, ci può dire quali sono i maggiori sprechi e dunque i settori sui quali si focalizzerà il vostro lavoro? Ma noi guarderemo tutta la spesa pubblica, quindi non c'è un'area particolarmente escluso, in questo senso continuiamo nello sforzo già fatto negli ultimi due anni, quindi continueremo per quanto riguarda gli enti locali con l'approccio che abbiamo introdotto già nella legge di stabilità di quest'anno, cioè l'utilizzo dei costi standard come parametro di efficienza. Avremo sicuramente o daremo maggiore enfasi sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione e questo sarà fatto collegamento o in attuazione della legge delega della riforma della pubblica amministrazione. Faremo un lavoro tutti i costi legati a investimenti in infrastrutture, trasporto locale. Insomma, tante aree. Lei però da sempre è un abituato alla concretezza dei numeri, la sua carriera professionale dice questo. Mi ci dà un obiettivo numerico, cioè quanto pensa di risparmiare con la Spending Review? Ma direi che l'obiettivo per il 2016 per assicurare che possiamo eliminare del tutto le clausole di salvaguardia è attorno a 10 miliardi. 10 miliardi. Se riusciamo a fare di più, potremmo continuare nell'operazione di riduzione delle tasse che abbiamo iniziato quest'anno e abbiamo come obiettivo a proseguire e rafforzare. Sa che Cottarelli puntava anche a una richiesta di 3 miliardi, credo, dalle pensioni d'oro. Invece mi pare di capire che le pensioni, che incidono, credo, per 270 miliardi sulla spesa pubblica italiana, non verranno toccate. Lei ci conferma che questo non è un ambito sul quale decidete di intervenire? Abbiamo già affrontato questo l'anno scorso e la decisione politica è stata di non toccarlo. Non toccarle, però è appunto una fetta di spesa pubblica molto ampia, come mai rinunciare politicamente a incidere lì? Ma ricordiamo che comunque le pensioni alte, quelli sopra 90.000 euro l'anno, sono già in qualche modo passate, quindi c'è già un intervento di equità. Andare più in giù significherebbe di fatto entrare sui livelli di pensioni medie, quindi si è deciso politicamente di non toccarle. Non toccarle. Lei avrà letto il Sole 24 Ore che ieri annunciava come oggi scada il termine entro il quale le province dovranno indicare come gestire anche il personale in esubero dopo la riforma che le porta a una parziale abolizione. Sa che io dico che in realtà non sono abolite, insomma è una riforma molto complicata. Cosa succederà da domani? Perché mi risulta che praticamente nessuno si sia adeguato a questo termine. Beh, noi stiamo facendo l'operazione di spostamento di queste persone in modo graduale dalle province a altri uffici, a altre strutture della pubblica amministrazione che hanno bisogno di più risorse, per esempio i tribunali. Quindi ci sarà adesso un processo, ovviamente non si chiuderà in un mese, di questa transizione. La modifica della legge che è stata fatta l'anno scorso, che permette questa mobilità, è un elemento fondamentale, che perché prima non era neanche possibile passare persone, spostare persone da un ufficio a un altro. Ma voi temete, esatto, temete che qualcuno si metta di traverso, per esempio i sindacati, a questa mobilità tra uffici? Ma noi abbiamo, a parte fatto questa una legge dello Stato, abbiamo proprio definito anche tutte le modalità di questo trasferimento, tutte, assicurando che le persone non perdono di stipendio e così via. Quindi c'è tutto un percorso già definito che ci permette di fare questa operazione che appunto proseguirà. Un capitolo importante, lei ce l'ha già preannunciato, sono i contributi alle imprese. Per esempio, si parla di 8 miliardi alle ferrovie, volete tagliare lì, volete tagliare sul trasporto pubblico locale, tanto ce lo conferma, sono troppi questi trasferimenti, pensate di incidere lì? Ma noi crediamo che si riesca a trovare margini di efficienza sia nei trasferimenti alle ferrovie sia nel trasporto pubblico locale. Ovviamente richiede di non semplicemente tagliare, ma cambiare il modo in cui questi contributi siano dati e il modo in cui da un lato il trasporto pubblico locale è organizzato e dall'altra parte i processi di gestione e di decisione sulle grandi opere. Però mi scusi, margini di efficienza che vuol dire? Intanto vuol dire tagliare e poi riorganizzare meglio le risorse? No, noi abbiamo, faccio un esempio, sul trasporto pubblico locale abbiamo molta sovrapposizione tra servizi concorrenti, tutti che prendono sussidi, abbiamo generalmente utilizzo poco efficienti dei mezzi, quindi abbiamo dei mezzi che vanno mediamente meno pieni, cioè più vuoti che in altri paesi, e questo necessita un livello di sussidio più alto, quindi si partirà proprio da rendere questi servizi più efficienti per poter ridurre il contributo, non per ridurre il livello di servizio o per aumentare il costo dei biglietti. Questo certamente, però c'è poi il grande punto di domanda che sempre ha lanciato Cottarelli, il suo predecessore, sulle società compartecipate, sulle municipalizzate, su quelle che vengono definiti spesso dei poltronifici per politici. Perché Gutgeld non si riesce a incidere lì? Anche lì nella legge di stabilità Cottarelli aveva inserito questo suggerimento e poi è sparito tutto e tutto rimandato. No, non è corretto dire questo. Noi abbiamo chiesto a tutte le amministrazioni, quindi comuni, regioni, ma anche università e altri enti che hanno società, di fare un piano entro il 31 marzo, quindi entro oggi, e infatti. Di sottoporre un piano di razionalizzazione seguendo alcuni criteri di efficienza, e così via. E chi l'ha rispettato? Qualcuno l'hanno rispettato? Beh, adesso questa è, diciamo, oggi era l'ultimo giorno e questi piani sono sottoposti alle Corte dei Conti regionali. Dovremo nelle prossime settimane, sarà una delle attività importanti che faremo, è raccogliere questi piani, leggerli, vedere se sono sufficienti o meno e in funzione di questo intervenire successivamente. Quindi il tema delle partecipate è assolutamente uno dei temi centrali di cui ci occuperemo. Quindi mettiamo il caso che un comune, una regione, un ente non ha comunicato il piano, cosa può fare il governo centrale? Perché succede anche questo, come sa, purtroppo. Beh, purtroppo. Ci sono ovviamente sanzioni e altri modi per intervenire, però noi faremo l'attività di sollecitare quelli che non hanno, che non avranno proposto questi piani. E come dicevo, partiremo dal lavorare soprattutto sui grandi comuni, sui singole situazioni. Poi valuteremo, se necessario, nei prossimi mesi anche interventi normativi. Però la realtà delle partecipate è molto complessa, quindi non è facilissimo intervenire in modo normativo, è più efficace lavorare proprio con con i grandi comuni e le regioni per fare dei piani di ristrutturazione specifici. Come collaborazione. Si è detto spesso anche, lo ha detto anche il Presidente del Consiglio, che 5 corpi di polizia sono troppi. In concreto cosa vuol dire? Si parla dell'accorpamento del corpo forestale con la polizia. È questa l'ipotesi? Beh, si sta lavorando su questo, quindi non vorrei adesso anticipare, anche perché queste sono riforme complesse che richiedono lavoro serio e condivisione da parte anche di chi è coinvolto, però le ipotesi sono l'intervento o eliminazione di uno di questi, potrebbe essere la forestale, e poi razionalizzazione anche della presenza territoriale. Mm-hmm. Quindi messa assieme dei servizi di supporto e così via. Mm-hmm. Comunque questa è un'area importante, seria, richiede un lavoro importante che faremo nei prossimi mesi. Quando lei dice 10 miliardi vuol dire che 10 miliardi devono essere recuperati entro quest'anno per non far scattare nel 2016 la clausola di salvaguardia? Dovranno essere concretizzate nella legge di stabilità per il 2016, quindi formalizzate entro novembre di quest'anno. Entro novembre di quest'anno. L'ultima domanda che le faccio è questa: ridurre le auto blu è una battaglia di principio o è una battaglia che porta davvero dei risparmi? Soprattutto un elemento simbolico, ovviamente. Poi ci può essere anche un risparmio. Da un lato è un simbolo, dall'altra parte è una questione di principio e di modo di lavorare, di ragionare, quindi anche un elemento importante in questo senso. Va bene, ovviamente le auguriamo un buon lavoro. Quando è che vedremo questi dati di Cottarelli? Perché sempre si dice tra qualche giorno, cioè c'è già una data su quando verranno pubblicati i dossier del gruppo? Io adesso in realtà i dati sono risiedono al Ministero dell'Economia nei prossimi giorni, insomma, contiamo una decina di giorni, le diamo una decina di giorni di tempo, Guttgeld, va bene? 10 giorni? Va bene, 10 giorni. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Yoram Guttgeld, ripeto, è il nuovo commissario per la Spending Review. Ci ha detto appunto, entro la legge prossima di stabilità sono 10 miliardi che devono essere individuati, perché altrimenti scattano, cari ascoltatori, l'abbiamo spiegato tante volte, le clausole di salvaguardia, cioè ci sono delle tasse che scattano per l'anno prossimo se non si trovano appunto questi miliardi da mettere in legge di stabilità entro quest'anno. Allora, dopo la pubblicità avremo ospite invece un sindaco, il sindaco di Mulazzo, siamo in provincia di Massa Carrara, che ha deciso di fare questo. Non pagate l'IMU, cari cittadini, avete tempo entro il 30 aprile, credo, e poi se non lo fate io pubblico i vostri nomi e cognomi sul sito del comune, così una bella gogna mediatica vi seppellirà. Allora, alle 8:36 minuti ce la farà Yoram Guttgeld a tagliare 10 miliardi quest'anno per evitare che scattino nuovi aumenti di tasse a partire dal 2016, questo lo vedremo. Ma a proposito di tasse, vogliamo parlare di una notizia che ci ha colpito e che riguarda il comune di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, il cui sindaco è qui con noi, è Claudio Novoa. Sindaco, buongiorno. Intanto, quanti abitanti fate buongiorno a Mulazzo? Buongiorno a lei. Mulazzo è un piccolo comune di 62 chilometri quadrati per circa oltre 2500 abitanti, persone. 2500 sì. Persone. Ma ieri lei è finito sui giornali perché vuol fare un'iniziativa che hanno ribattezzato la gogna mediatica. Assolutamente. Però, insomma, allora, ci sono delle persone che non pagano l'IMU, questo purtroppo succede, alcuni magari non possono, altri invece ci marciano un po'. È davvero così, ci sono numeri così elevati di gente che non paga l'IMU fino a questo momento, sindaco? Bene, fortunatamente non tantissime, la minima parte di persone che non adempie il proprio dovere. Si parla di tributi locali, quindi non solo IMU ma anche la TARI, quindi la rifiuti, la tassa sui rifiuti, diciamo. Queste. Cioè quante sono queste persone? Più o meno? Circa 200 persone, diciamo così. Quindi nuclei familiari che hanno, nel corso di questi anni, hanno prodotto una cifra record, di oltre 600.000 euro. Cioè 600.000 euro di ammanco per il comune? Eh beh, sì, mica di, male. Di morosità che è una cifra enorme, importante per il nostro per un piccolo bilancio. Comune effettivamente non è male 600.000 euro. Solo che lei esatto. che cosa si è inventato? Ha detto cari cittadini che non avete pagato, cari morosi, avete tempo fino al 30 aprile, giusto? E questa è la data? Esatto. 30 aprile. Esatto. Dopodiché? Allora, noi abbiamo fatto questa azione anche di informazione, nella quale abbiamo evidenziato quelle che sono le difficoltà dell'amministrazione nel far fronte al mantenimento di tutti i servizi. Abbiamo detto, carissimi cittadini, noi abbiamo bisogno di realizzare opere, abbiamo bisogno di continuare l'opera di ricostruzione perché siamo stati un comune alluvionato, abbiamo la necessità di mantenere i servizi che sono necessari. In questo momento siamo in difficoltà. Purtroppo c'è una parte minima della popolazione che non contribuisce. Probabilmente è frutto anche di dimenticanza perché la realtà è... Vabbè, insomma, quindi ha fatto un appello al buon cuore di tutti. Senso di responsabilità. E anche una questione di rispetto verso coloro che fanno il proprio dovere, verso coloro che sono anche in difficoltà. Guardi, noi non abbiamo mai disatteso quello che è stata una richiesta di attenzione da parte di chi è in difficoltà. No, ma questo sì, sindaco, però lei ha fatto qualcosa in più, cioè ha detto se al 30 aprile quelli che non hanno pagato le tasse io metterò i loro nomi e cognomi sul sito web del comune. Questa è, per dire, una conseguenza rispetto a un obiettivo che vogliamo, e cioè quello di togliere dalla clandestinità coloro che in un certo senso ci marciano rispetto a questa condizione. Perché ma lei lo può fare? Cioè, si è informato, non so, dal garante della privacy, si sa che ci sono questi. Assolutamente, perché è una questione di chiarezza, di trasparenza, di patto di cittadinanza che è necessario in un certo senso riaffermare. Ma poi guardi, è anche un segnale che va nella direzione del governo, che sta ben operando in questo momento. Però che deve prestare un'attenzione particolare alle piccole realtà, ai piccoli comuni che oggi sopportano un peso importante e che di fronte anche a questa criticità dovuta al fatto che tutte le spese sono sostenute con la finanza locale, di fronte alla morosità qualcuno la fa mancare. Però lei, insomma, lei vuole scovare anche questi furbetti, vuole il rischio di gogna pubblica, lei se l'è posto, cioè la gente che va in giro per il paese, è un paese piccolo, vi conoscete tutti, è un paese piccolo, ma guardi, io ho avuto in questi giorni, dopo che è uscita questa informazione, che poi proprio va nella direzione di informare, perché tanti non si rendevano conto di questa importanza, di questo ammontare. Lei poteva dire informiamo che mancano 600.000 euro, però un'altra cosa è dire mancano perché Pinco Pallino non ha pagato. Lei sa benissimo che ogni volta che si approva un bilancio ci sono la parte dei residui che viene evidenziata, naturalmente, però sono dati che assolutamente vanno nel dimenticatoio. Abbiamo cercato di sensibilizzare, come giusto credo che si debba fare in un rapporto diretto, chiaro e trasparente con la propria popolazione, dicendo guardi, noi non possiamo disattendere tutta una serie di spese, di investimenti che sono necessari, però abbiamo bisogno del contributo di tutti. Tra l'altro è un momento particolare predisponendo anche il bilancio. No, ma è chiarissimo, sindaco, è quello che il problema che pongo è che se lo sarà posto anche lei è che dal 30 aprile finisce a maggio. Dal primo maggio c'è qualcuno che andrà a spulciare chi c'è sul sito del comune e potrà additare questa persona a dire tu non paghi la Tari, ecco perché non possiamo avere la nuova rotonda, ecco perché non possiamo, cioè c'è un po' questo rischio. Però si tratta anche di, io ho anche detto che coloro che sono in difficoltà, che hanno una situazione documentale dimostrata di difficoltà e di sofferenza, oltre a poter mantenere una serie di servizi che gli garantiamo, li aiutiamo, cioè si facciano vivere, li aiutiamo. Facciamo, ma infatti, guardi, piano di rateizzo. Anche il piano di rateizzo. Tra l'altro, guardi, sindaco, le devo dire al 349-238-6666 i nostri messaggi arrivano, glieli leggo così, è proprio fa bene, grande sindaco, fa bene il sindaco a fare ciò che fa. C'è solo un ascoltatore, Mimmo da Cosenza, che dice ci poniamo il problema che molti non possono pagare, ma lei ha detto se qualcuno non può pagare rateizziamo, noi oppure gli veniamo incontro. Guardi, io ho fatto un cavallo di battaglia alla lotta all'indifferenza, violenza, che la considero il male di questo momento. Ah, no? Non che... male, la lotta all'indifferenza. Questo... Quindi quando un cittadino si presenta all'amministrazione, che è l'anello di congiunzione col proprio cittadino, deve trovare una risposta. Noi ci siamo dotati anche di un fondo straordinario, sono riuscito ad avere la collaborazione di tutte le associazioni del mio comune per dare un aiuto a chi si trova proprio in difficoltà. Di fronte al pagamento di una bolletta improvvisa che non riesce a farvi fronte, e noi non ci giriamo dall'altra parte, però chi ci marcia collaborazione, perché è rispetto verso chi fa il furbo. Ma guardi che su questo, cioè chi viola il patto sociale di non pagare le tasse, certamente in America per esempio verrebbe non solo messo sul web, forse verrebbe anche denunciato e arrestato subito, ma sa, qua in Italia è un po' diverso. Però vorrei sentire Alberto da Milano, ci chiama un ascoltatore. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Sì, dica. Io non ero d'accordo sul discorso dell'IMU, nel senso che l'affari mi sembra un costo che viene sostenuto dal comune e viene rimborsato dai cittadini. Mm-hmm. Ma l'IMU, ricordo che si chiamava ISI nel 92, istituita dal governo Amato a titolo straordinario. Dopo poi vari tentativi. Quindi lei dice è giusto lo spazio che si occupa, ma senza... E non è una tassa giusta, perciò non è così tanto una gogna mediatica il fatto di dire non ha pagato l'IMU qualcuno, è giusto dire la Tari. La Tari invece sì, però lei dice, Alberto, l'IMU essendo per lei una tassa ingiusta non può essere non pagata? Mi faccia capire. Può essere che il cittadino abbia una propria posizione, possa dire no, ma io devo fare ricorso contro la tua tassa perché ha dei risvolti oscuri. E quindi da questo punto di vista non accetta che venga uno additato come evasore dell'IMU? Non capisco perché, cioè, ci sono tanti ricorsi contro l'ICI, soprattutto sui terreni che tante volte vengono valutati. Vediamo, è un punto interessante. Sindaco Novoa, lei fa una distinzione tra tasse non pagate, dice l'ascoltatore, l'IMU in fondo è una tassa per la quale molti cittadini fanno contestazioni e quindi mettere tutto nel calderone di tasse non pagate non va bene. Sindaco. Guardi, io dico questo, il sindaco ha il dovere e la responsabilità di garantire tutti i propri cittadini tutta una serie di servizi e il principio di equità e di uguaglianza. Di fronte a questo, queste risorse servono per finanziare investimenti e servizi. Noi le abbiamo iscritte a bilancio perché ci sono delle norme che prevedono tale condizione. E quindi di fatto io credo che nel rispetto di questo, rispetto della normativa, si debba fare. Si possa e poi fare. Le leggi possono essere impugnate, si possono fare i ricorsi, ma naturalmente quando la chiarezza di applicazione di una norma e di un tributo è patrimonio di tutti, io credo che non ci si debba sottrarre da questo dovere. Questo è un principio. Senta, lei è sicurissimo che con la privacy è tutto a posto? Glielo chiede anche un ascoltatore via sms, glielo ho chiesto anch'io. Assolutamente, cioè, si è informato, cioè non è... il regolamento nostro è previsto, quindi Il regolamento è previsto, ma le leggi, il garante sulla privacy non è che l'ha chiamata a dire. Sì, ma non sono dati sensibili, si parla di dati informativi e quindi di fatto non ci sono problemi. Lei pubblicherà tutto, anche, non so, scopre un consigliere comunale del suo partito che non paga? Assolutamente, guardi, tra l'altro di questa operazione trasparenza, nonostante siamo un comune di 2500 abitanti, abbiamo pubblicato online tutti i nostri redditi senza problemi, nell'adempimento proprio più massimo, che è giusto che sia, perché in questo rapporto diretto che si deve avere con la cittadinanza non ci devono essere assolutamente ombre o quantomeno sospetti rispetto a quella che è la propria condizione personale. Va bene, noi sì, viviamo questa esperienza politica amministrativa veramente come un'esperienza temporanea per fare qualcosa di straordinario per la nostra popolazione, i nostri cittadini, e vorremmo che ci fosse i cittadini collaborassero. Esattamente. Io penso che, guardi, questa iniziativa poi alla fine avrà proprio un beneficio anche in termini di dialettica e di rapporto diretto, perché probabilmente abbiamo bisogno di trovare dei canali alternativi rispetto a quelli amministrativi. Ma guardi, guardi, intanto, intanto noi le facciamo in bocca al lupo. Devo dire, dai messaggi, se è un test molto molto così, un sondaggio molto molto grezzo, sono arrivati tantissimi complimenti, qualche critica, ma davvero soprattutto tanti complimenti per questa iniziativa. Staremo a vedere, ci aggiorniamo al 1 maggio, a questo punto al 2 maggio. Magari i cittadini, per evitare questa gogna, correranno in comune a pagare, che poi in fondo è quello che lei vuole, no? Per recuperare un po'. Ma è quello che abbiamo bisogno, guardi, perché poi queste risorse vengono spese sul territorio e quindi è interesse di tutti. Cari cittadini di Mulazzo, sono soldi che vi tornano in tasca. Questo sta cercando di farvi capire il sindaco. E potremo anche diminuire la tassazione. Questo è un altro aspetto importante, perché il meccanismo che abbiamo oggi poi di fatto produce una conseguenza che assurda, che coloro che hanno sempre pagato si troverebbero a dover pagare qualcosa. Ma è chiaro, in più pagare, pagare tutti per pagare meno tutti poi. La ringrazio, sindaco, sindaco di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, Claudio Novoa. E ora, dopo il traffico, ci sono i nostri lavoratori. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che fossino pigliafuoco. Vabbè, che mi fossino pigliafuoco. Allora, allora, ma no, chi è che mi scrive? Viva il sindaco, da che parte sta? Hai una simpatia per gli evasori, Milan? Lei fa giornalismo sbagliato ponendo domande pretestuose. Ma che idea hai del giornalismo? Ma che idea hai, caro ascoltatore del giornalismo? Infatti, talmente pretestuoso che abbiamo invitato il sindaco che fa questa iniziativa. Posso fargli delle domande? Posso fargli anche delle domande, come dire, un po' incalzanti, un po' per pungerlo? No, oppure... Vabbè, ma insomma, dai. Ho sprecato anche troppo tempo. Domenico da Modena ci ha chiamato su questo tema. Domenico, buongiorno. Che dice? Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Dichi. Nulla, io volevo giusto portare la vostra attenzione e l'attenzione anche del sindaco, che al di là di quella che può essere un'iniziativa encomiabile o meno, un cittadino come me che dopo 58 anni di onesta vita cittadina e di contribuente si è ritrovato ad essere evasore fiscale dallo scorso anno, in quanto perché sono dovuto emigrare a Modena dalla mia cara Puglia, nella quale ho un appartamento di proprietà dal 1975 nel quale ci abitano mia moglie e i miei figli. Qui a Modena non sono titolare di alcun contratto di affitto, sono ospite di conoscenti. Ebbene, signori miei, il governo mi chiederebbe di pagare l'IMU sulla mia unica proprietà immobiliare gestita da mia moglie e da mio figlio e nella quale io ci ritorno abitualmente, applicandomi una tariffa come seconda casa con la cifra di 1.200 euro. Ecco. E lei non l'ha pagata? Io non l'ho pagata, sono andato all'ufficio imposta del comune e mi hanno detto, guardi, per noi... Non la paghi, poi nel tempo vedremo se viene fuori. E se si ritrovasse a Mulazzo rischierebbe di finire sul web. Sul perfetto, web. Ma perché io dovrei rischiare di essere finire sul web, essere alla gogna comune, quando il governo e le leggi impositive mi hanno, dopo 58 anni di onesta contribuzione sociale, cambiato le cose? Domenico pone una bella questione, insomma, come ci ha posto prima l'ascoltatore sulla questione dell'IMU. Torneremo su questo tema, visto che vi è appassionato, ma ora... Lavoratori! I nostri lavoratori ci stanno scrivendo a 24 mattino e tra radio24.it per raccontarci il lavoro più bello, più strano, che vi appassiona, che vi emoziona. Oggi abbiamo Luigi, che avevamo anche ieri, poi però è scomparso. Luigi, buongiorno. Luigi fa buongiorno Alessandro. Fa un lavoro straordinario. Lavora di... Io mi occupo della cura di ulivi secolari. Oh, che è un tema dibattutissimo, perché poveri ulivi sono molti ammalati. Questo riguarda però la zona del Salento. Io vivo in provincia di Bari, a San Nicandro di Bari. Tutti a posto, un po' distante. No, speriamo davvero che non arrivi. Che vuol dire lavorare con gli ulivi secolari? Vuol dire occuparsi personalmente di loro, scavandoli praticamente ogni anno, sia per la raccolta, sia per la potatura, e conoscere molti aspetti, tipo Magari, non so, io conosco tutte le mie piante come se fossero, sa, dei figli. Ma è fantastico, cioè, quante, sì, piante, sì, quante piante hai? 500 piante circa. 500? Certo, ma e ognuna 500 ha bisogno piante. Di una cura particolare? Ognuno? Sì, a volte qualcuno si ammala, bisogna lavorare là in un certo modo, è certo. È una questione di appassionarsi ecco, a questo lavoro. Secolari cosa vuol dire? Cioè, quanti anni può avere un ulivo? La maggior parte hanno 200 anni, qualcuno ne ha 300, la maggior parte sono già secolari, cioè hanno 100 anni, sono stati piantati dai miei nonni. Cioè, vi rendete conto quando si legge che alcuni muoiono per queste malattie? Vuol dire 300 anni, 200 anni, certo, di storia, certo, di passione. Certo, che... è una tragedia. Per noi che viviamo di olivicoltura, qui nella Puglia la maggior parte dell'agricoltura è tutta olivicola, è una vera tragedia. E come si impara questo lavoro? Si tramanda di generazione in generazione? Sì, io l'ho avuto, diciamo, in eredità, questo lavoro l'ho accettato in eredità. La mia famiglia ha sempre lavorato sugli ulivi. Dal mio bisnonno, quindi questa è una zona nel mio comune, un comune piccolissimo, ci sono 1 milione di piante. San Nicandro di Bari forse è uno dei comuni dopo Andria con più olivi secolari, diciamo, proprio tutto il territorio è al 99% olivicoltura. Caro Luigi, sei stato straordinario nel raccontarci, si sente proprio la passione, l'amore per questi ulivi secolari nel lavoro che tu fai, e ti ringraziamo per questo. Ovviamente un grande abbraccio a te e a tutti i tuoi 500 ulivi trattati come figli. Voi scriveteci a 24mattino@radio24.it se volete raccontarci in chiusura di trasmissione il vostro lavoro, il lavoro che vi appassiona. Intanto con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli vi diamo appuntamento insieme al nostro alpino Peter Bescapè in regia. A domani 6:30. 24 mattino.